Dunque, dalla commissione di questa mattina sono emerse, a mio parere, tre questioni. Un punto politico: c'è una maggioranza in consiglio, trasversale alla maggioranza consigliare e a una parte delle minoranze, che ritiene che si debba fare ogni cosa possibile per arginare i nefasti effetti del cosiddetto decreto sicurezza. Secondo punto tecnico: dal punto di vista tecnico c'è unanimità nel ritenere che l'accesso a tutti i servizi, dall'istruzione alla sanità, dai servizi privati come l'apertura dei conti correnti, ai servizi pubblici come i servizi per il lavoro, possono e devono essere garantiti sulla base del solo domicilio. C'è invece una opinione tecnica divergente sulla possibilità dell'iscrizione anagrafica, che è l'oggetto del primo ordine del giorno che abbiamo presentato. Terzo punto, dal punto di vista della fenomenologia, di quello che sta succedendo nei fatti, quello che gli operatori dei servizi ci hanno raccontato è che oggi i problemi sono innumerevoli. Quindi, per certo, le cose da fare sono due. Innanzitutto, a partire da domani, prendere una posizione chiara, comunicare a tutti i gestori dei servizi pubblici e privati che sulla base del mero domicilio quei servizi devono essere garantiti a tutti i richiedenti asilo. In secondo luogo, e questo è un punto politico controverso, se il Comune di Bologna vuole giocare la sua partita, in presenza di due interpretazioni, entrambe plausibili, sulla iscrizione anagrafica o meno dei richiedenti asilo, può dire con un po' di coraggio politico che a Bologna l'iscrizione anagrafica si fa, dando una lettura costituzionalmente orientata della normativa, il che non vuol dire smentire chi la pensa diversamente, vuol dire scegliere politicamente di privilegiare tra due interpretazioni plausibili quella che rende più immediato, automatico e agevole la fruizione di diritti fondamentali da parte di soggetti che non possono esserne privati. Ecco, che però non è la posizione che è emersa finora nella commissione di questa mattina. No, quest'ultimo punto, ripeto, è quello che io penso, nel senso che l'unanimità, per così dire, c'è sul riconoscimento dell'accesso ai servizi sulla base del mero domicilio, però, come dire, evidentemente potrebbe non bastare un'operazione di comunicazione comunque essenziale, comunque da fare nell'immediato, della possibilità di fruire di tutti i servizi e di riconoscere i diritti sulla base di quel solo elemento. Quindi a me pare che sia un nodo aperto di battaglia politica da svolgere, lo dico di me, ma lo dico anche di altri consiglieri e consigliere, anche interni alla maggioranza. Ecco, battagliare perché sia privilegiata l'interpretazione che ritiene possibile sulla base di altri documenti idonei ad accertare la regolare presenza sul territorio e l'identità dei richiedenti asilo, anche l'iscrizione anagrafica, perché Bologna è avanti e vuole, diciamo, contrastare questo decreto utilizzando tutte le strade possibili tenute aperte, lasciate aperte dal tema giuridico che non ha impedito né potrebbe impedire, a giudizio di molti, l'iscrizione anagrafica di una persona identificabile e regolarmente presente sul territorio dello Stato. Anche perché, insomma, per quanto l'accesso ai servizi sia possibile anche con il mero domicilio, poi restano dei servizi o comunque delle cose per cui la residenza e iscrizione anagrafica è necessaria, penso solo come è stato formulato recentemente anche il reddito di cittadinanza. Sì, dunque, questo è vero, anche se è vero solo in parte, perché l'opinione più accreditata e mi pare anche più condivisa è che l'elemento del domicilio dovrebbe consentire l'accesso a tutto. Sicuramente il fatto che si abbia l'iscrizione anagrafica rende immediatamente praticabile e non suscettibile di applicazioni differenziate da parte di gerenti pubblici e più ancora privati la fruizione appunto di alcuni diritti, nel senso, io posso anche dire alle banche: badate che un conto corrente dovete lasciarlo aprire ad una persona perché altrimenti non può ricevere lo stipendio e dunque nei fatti non può lavorare, ma non li posso obbligare. Se invece io ho l'iscrizione anagrafica, il problema è risolto in partenza, a prescindere, diciamo, dall'efficacia della mia comunicazione e della sua persuasività, ecco. Ecco, perfetto. Ora ti chiederei di affrontare un pochino un altro tema, che era l'altro che è stato discusso questa mattina in commissione, ovvero quello di come cambierà il sistema dell'accoglienza su Bologna, in particolare il possibile cambio dell'hub di via Mattei in CAS. Cioè, come è andata invece questa parte della discussione? Ma dunque, è emesso con grande chiarezza che ci sono notevoli criticità, perché il tipo di modello di accoglienza che è immaginato dal cosiddetto decreto Salvini ha previsto un taglio così significativo da privare tutta una serie di soggetti che ne hanno bisogno di servizi di supporto, come per esempio anche per i minori le scuole, la formazione linguistica, il supporto psicologico per le persone in condizione di fragilità. Quindi, diciamo, l'aspetto dei CAS è il taglio delle risorse, rischia di fare pagare un prezzo proprio sull'elemento della integrazione, oltre al fatto che, essendoci tra i servizi anche l'assistenza legale, rischiano di diminuire nei fatti le domande e i ricorsi e le contestazioni degli illegittimi dinieghi per una questione, diciamo, che mi sentirei di definire asimmetria informativa, diciamo, impossibilità di percorrere vie, strade legittime consentite dall'ordinamento sulla base però di un'assistenza legale garantita, che invece oggi viene fatalmente tagliata. Insomma, è in discussione il modello di accoglienza diffusa che a Bologna è stato sperimentato con qualche, diciamo, riscontro positivo e che oggi necessita di mettere in campo delle risorse nostre a questo punto, se vogliamo mettere una pezza a un sistema messo fortissimamente sotto stress e che produrrà inevitabilmente irregolarità e clandestinità, dunque insicurezza. Questo, il giudizio politico su questo è stato unanime nelle persone ascoltate questa mattina. Ecco, invece l'ultima cosa che ti vorrei chiedere, sempre tornando al tema dell'iscrizione all'anagrafe, perché per esempio Barigazzi, assessore al welfare, subito dopo la commissione ha ribadito appunto che sì, si può accedere ai servizi tramite il domicilio, quindi fondamentalmente dell'iscrizione all'anagrafe non ce ne sarebbe bisogno, e che invece resta aperta l'opzione di creare un albo dei richiedenti asilo. Quindi ti chiederei un commento su quest'ultima opzione. Allora, devo dire la verità, io penso che se il comune sceglierà di negare l'iscrizione anagrafica, innanzitutto se la vedrà con i ricorsi, perché questa scelta sarà sicuramente contestata in via giudiziaria e si vedrà. Dal punto di vista politico lo ritengo un errore e non ritengo convincente la strada alternativa di un albo apposito, che pure con tutte le buone intenzioni alcuni comuni hanno sperimentato, perché c'è un punto politico al quale io tengo da sempre e fortemente, che è quello di evitare il meccanismo del doppio canale. Tutto il fenomeno migratorio è caratterizzato da una sorta di diritto speciale. Io penso che questa via andrebbe fortemente contrastata, mentre ho come il timore che, al di là delle buone o ottime intenzioni, un albo parallelo la asseconderebbe.